Chiedetemi un po' di latte per lui. Su, Victor, vieni. Io vorrei del latte. Latte. Ecco, Madame Guérin, ecco il latte. No, Victor, no. Devi chiederlo. Madame Guérin, vorrei del latte. Sì, dottore. Grazie, Madame Guérin. Latte. Latte. Latte. Dateglielo lo stesso. La. Molto bene, Victor. Era la prima volta che un suono articolato usciva dalla bocca di Victor. Madame Guérin lo accolse con la più viva soddisfazione. Quanto a me, osservai una cosa che diminuì di molto ai miei occhi il valore di questo primo successo. Era stato solo nel momento in cui, disperando di riuscire, Madame Guérin aveva versato il latte nella ciotola, che Victor aveva emesso quel suono con una piccola smorfia lamentosa. Sentii che non dovevamo assolutamente fermarci a quel punto e aspettai con impazienza che Victor mi chiedesse di nuovo una ciotola di latte. Linee d'ombra. Storie dei nuovi vizi capitali. Di Matteo Caccia. A casa di Marco era come essere dentro a un negozio di giocattoli. Potevo giocare con qualsiasi cosa per poi tornare la sera a guardare i miei miserabili giochi. Storie di giocattoli, appunto, e di bambini selvatici in una puntata tutta dedicata al vizio dell'invidia. Abbiamo aperto questa puntata di Linee d'ombra con una citazione da un film, come facciamo pressoché sempre. Prendiamo un film che racconti o che introduca qualcosa della puntata che stiamo per raccontarvi. Quel film era Il ragazzo selvaggio di Truffaut e adesso capirete il motivo di questa scelta, perché in questa puntata parleremo anche dell'invidia per la libertà degli animali selvatici o selvaggi che dir si voglia, ma ci arriveremo con calma. Prima vogliamo fare una cosa che non abbiamo mai fatto, l'abbiamo deciso oggi insieme ad Anita Panizza, ed è provare a chiedere delle storie specifiche. Noi abitualmente vi chiediamo di raccontarci e di inviarci delle storie della vostra vita legate ad uno dei vizi capitali, ma come sapete anche i vizi capitali di cui raccontiamo non sono solo i 7 vizi capitali, quelli che conosciamo tutti, ma anche alcuni nuovi vizi capitali. Ne abbiamo riconosciuti alcuni, come l'eccesso di velocità, ad esempio il fatto di non essere in grado di rallentare e di prendere le misure con le cose che ci stanno intorno per la troppa velocità della vita quotidiana. E un altro dei vizi capitali che abbiamo individuato è quello dell'oblio, il vizio dell'oblio. Non so se esista realmente, chiaramente non esiste nell'iconografia dei vizi capitali, non so nemmeno se possa essere considerato come tale. Noi crediamo di sì, però crediamo che l'incapacità di ricordare e quindi la tendenza a dimenticare pezzi importanti della propria esistenza e dell'esistenza dell'essere umano in generale, quelle nel bene e nel male, sì, sia un vizio a tutti gli effetti. Se per caso proprio in questo momento, mentre ci state ascoltando, mentre state ascoltando Radio 24 e state ascoltando Linee d'ombra, vi viene in mente o avete voglia di pensarci ad una storia della vostra vita legata ad una dimenticanza, ma non a una sbadataggine, a qualcosa che avete dimenticato o qualcosa per cui siete stati dimenticati, qualcosa che nella vostra vita che è passato in un ambiente di oblio assoluto, in una fase di oblio assoluto, e che invece era il caso di ricordare, qualcosa legato alla vostra infanzia, qualcosa legato alla vita passata dei vostri genitori o dei vostri nonni, che invece sarebbe stato utile ricordare perché quel pezzo di memoria era fondamentale per voi, per la vostra famiglia e chi lo sa magari anche per le persone che vi stavano vicino. Insomma, se avete una storia di oblio, se avete una storia di dimenticanza, questo è il posto giusto per raccontarlo. La scrivete e ce la mandate. linee d'ombra@radio24.it. Noi la prendiamo e in una puntata probabilmente speciale ci faremo un'intera puntata di Linee d'ombra. Un'intera giornata è ardito, eh? Un'intera giornata, 24 ore su 24. Potremmo proporla al direttore di fare una giornata intera di Linee d'ombra ospitata di altri programmi. Ma chissà, magari più in là con il tempo e con le puntate. Vi dicevo, una storia di oblio legata alla vostra vita, mandatecela a linee d'ombra@radio24.it. Ma parla di invidia questa puntata, parla di invidia, o meglio racconta di invidia, e partiremo con una storia che è proprio legata alla vita selvaggia. C'è una grande retorica negli ultimi anni, soprattutto legata al mollare tutto, mollare la città, mollare la vita stressata e andare a vivere in campagna. E appunto è una grande retorica, una retorica che io tra l'altro frequento moltissimo, perché c'è in un angolo della mia mente il desiderio di prendere un giorno e andare a vivere in una regione remota e piena di natura. Per me è il Friuli Venezia Giulia. Il Friuli Venezia Giulia è un po', forse perché banalmente sta ad est e non stiamo a ovest qui a Milano o in Piemonte dove arrivo, e il Friuli Venezia Giulia ha qualcosa di esotico per me, è lontano, c'è tanta campagna, è chiaramente una boiata quella che sto dicendo, perché il Friuli Venezia Giulia è una regione come le altre fatte di città e di strade, ma tant'è, non rovinate questa idea che ho del Friuli Venezia Giulia come di un luogo bucolico da raggiungere in una fase ormai diciamo pacifica della mia vita. Ecco, oggi raccontiamo una storia che non arriva dal Friuli Venezia Giulia, ma che arriva da un uomo che molto presto nella sua vita viene sostanzialmente abbandonato nelle campagne spagnole e impara a crescere con gli animali selvatici, i lupi, ma non solo i lupi, serpenti, cani selvatici. È una storia veramente incredibile che raccontiamo dalla sua viva voce, ma per partire apriamo con una storia di invidia molto semplice e che avremo provato tutti quanti quando eravamo bambini e quando semplicemente c'era qualcuno che aveva qualcosa più di noi. Una bicicletta più bella, un oggetto più bello, in generale cose, oggetti, qualcosa di tangibile che noi non avevamo. Ce la racconta un adolescente, non capita spesso di avere una storia raccontata da un adolescente e noi siamo felici di ospitarla. Cominciamo con lui, benvenuti a Linee d'Ombra. Per l'invidioso, vedere la felicità e i successi altrui è fonte di un fastidio personale. La attribuisce alla fortuna o al caso, oppure sostiene che siano frutto di ingiustizie. Penso che tutti, da bambini almeno una volta, siano stati invidiosi di qualche amico molto viziato. Questo è successo anche a me. Anch'io ho avuto un amico piuttosto viziato nella mia infanzia. Avevo 5 anni quando nell'appartamento di fronte al mio si trasferì una famiglia di 3 persone. Elena, la mamma, faceva la casalinga. Antonio, il papà, era un medico molto bravo che venne spostato dall'ospedale di Mestre a quello di Belluno. E fu per quello che tutta la famiglia si trasferì a Longarone. Poi c'era Marco, il figlio di Antonio e di Elena. Marco aveva 6 anni quando ci siamo conosciuti. Ci volle un po' per conoscerci davvero bene, perché all'inizio era piuttosto strano. Quando per la prima volta entrai a casa sua, rimasi senza parole. Marco aveva qualsiasi tipo di giocattolo in casa. La sua cameretta era colma. Non c'era nemmeno spazio in quell'enorme appartamento per tutti i suoi giochi. La camera di Marco era una camera normale, con in ogni angolo della sua camera si poteva dire che era colma di giochi di tutti i tipi, e ogni volta che entravo rimanevo sempre stupito che ogni volta erano, se ne aggiungevano sempre di nuovi. Uno dei giochi che preferivo più di Marco era il suo pupazzetto di Ben 10, che poteva cambiare colori, faceva tante luci, e penso sia stato uno dei miei preferiti. Dopo che ebbi passato il pomeriggio a casa sua, ritornai a casa mia, e andai nella mia camera per andarci a giocare. Vidi i miei giochi. Nella mia testa avevo l'immagine della camera di Marco e della sua marea di giocattoli. Penso sia stata la prima volta che provai invidia verso un'altra persona. Insomma, non mi sembrava giusto che lui avesse tutto quel ben di Dio, mentre io avevo solo un ottavo dei suoi giochi. Mi era passata tutta la voglia di giocare, così andai in salotto a intristirmi sul divano con il broncio. Non provavo più gusto a giocare con i miei giochi. Passavo tutti i pomeriggi a casa di Marco. Era come essere dentro un negozio di giocattoli. Potevo giocare con qualsiasi cosa per poi tornare la sera a guardare i miei miserabili giochi. You've got a friend in me. You've got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed. You just remember what your past said. Boy, you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. You got trouble, and I got them too. There isn't anything we wouldn't do for you. We stick together, see it through, 'cause you've got a friend in me. You got a friend in me. Quando andava a casa sua a guardare la TV e magari facevano la pubblicità di qualche gioco che lui non aveva, chiedeva subito ai suoi di comprarglielo e se gli dicevano di no, cominciava a piagnucolare finché non andava a finire che i suoi lo accontentavano. Mentre io quando guardavo e tornavo a casa provavo a chiedere ai miei genitori se potevo avere anche io quel gioco lì, mi rispondevano che non era necessario, che avevo già abbastanza giochi con cui giocare. Ogni volta che sentivo quella risposta, dentro di me saliva una sensazione di invidia e gelosia per Marco. Pretendevo di avere qualsiasi cosa che avesse lui. Volevo ricreare a tutti i costi la sua collezione di giochi. A quell'età non capivo ancora l'importanza dei soldi e che per guadagnarli bisogna lavorare molto sodo. Mi ricordo che ogni volta che andavo a casa sua era appena uscito la Nintendo DS e ogni volta che andavo là insisteva sempre con i suoi genitori perché voleva averla a tutti i costi, finché i suoi genitori l'hanno comprata e l'ha usata per quanto, un mesetto, e poi ha smesso di usarla. Poi dopo Marco si è trasferito e comunque avevamo un bel rapporto e comunque eravamo amici tanto stretti, poi però purtroppo si è trasferito e abbiamo perso completamente i rapporti. Provavo molto rancore verso i miei genitori in quel periodo. Secondo me mi continuavano a fare un torto e non riuscivo a capire perché non mi volessero accontentare. Più continuavo a chiedere e più sentivo dei rifiuti verso le mie richieste e dentro di me provavo un senso di rabbia sempre più forte. Passai circa 3 anni con Marco e la sua famiglia. Poi suo padre si dovette ancora una volta spostare di ospedale. Prima di andare via, Marco mi lasciò una parte dei suoi giochi e io diventai felice come una Pasqua. Quando Marco partì, capii che ero interessato più ai suoi averi che a lui. Poi, per fortuna, maturando, ho compreso cos'è l'amicizia e quanto è importante. Ho capito anche l'importanza e il valore del denaro e la fortuna di avere genitori che mi hanno insegnato i sani principi e non mi hanno mai viziato esageratamente. Non mi hanno mai fatto mancare nulla. Hanno sempre accontentato, tranne che per delle sciocchezze futili. Forse è un bene crescere in una famiglia che non ti vizi. Tutte le persone viziate con cui sono cresciuto con il tempo hanno avuto sempre un carattere più difficile, pensando che tutto gli fosse dovuto e che per ogni cosa che combinano avessero la protezione dietro i quattrini dei propri genitori. Smiling girls and rosy boys, come and buy my little toys. Monkeys made of gingerbread and sugar horses painted red. Rich men's children running past their fathers dressed in hose. Golden hair and mud of many acres on their shoes. Gazing eyes and running wild past the stocks and over stiles. Kiss the window, merry child, but come and buy my toys. You've watched your father plow the fields with a ram's horn, sowed it wide with peppercorn and furrowed with a bramble thorn. Reaped it with a sharpened scythe, threshed it with a quill. The miller told your father that he'd work it with the greatest will. Now your watching's over, you must play with girls and boys. Leave the parsley on the stalls, come and buy my toys. You shall own a cambric shirt. You shall work your father's land. But now you shall play in the market square till you be a man. Smiling girls and rosy boys, come and buy my little toys. Monkeys made of gingerbread and sugar horses painted red. Thank you. È una puntata tutta dedicata all'invidia, quella di oggi, e la storia che vi abbiamo raccontato è una storia molto semplice, ma che è molto rappresentativa di che cos'è l'invidia allo stato zero, cioè il grado zero dell'invidia. Siamo dei ragazzini e c'è qualcuno che ci è vicino, che è un amico, che ha semplicemente tanti più giochi di noi, e quella cosa lì ci manda un pochettino via di matto. Ci ha raccontata Thomas. Pronto, ciao Thomas, buongiorno. Ciao Matteo. Come stai? Bene, te? Io alla grande. Dove ti trovi in questo momento? In casa? Stai studiando? Stai facendo compiti? No, oggi è giorno di relax, di riposo. Come giorno di relax oggi? Sì. Ma scusami, sì. Quando è cominciato la scuola? Ieri. Ah, ok, quindi dici, già ieri ho dato tanto. Sì, tantissimo. Che cosa studi, Thomas? Faccio l'alberghiero qua a Longarone. E Longarone, che ricordiamolo, è vicino a Belluno, giusto per quelli che non avessero idea. È la zona legata al Vajont, forse alcuni se lo ricordano, soprattutto per quello che è successo in quel luogo e su quella diga. Senti, Thomas, tu quanti anni hai? 16, 17? 16 anni. 16 anni, quindi questa storia qua accadeva quando ne avevi invece 7, 8? No, un po' di meno, ero piccolo. Marco si è trasferito qua di fianco a me, che avevo 3-4 anni, non ne avevo 7-8. Una vita fa, Thomas. Sì, una vita, un'eternità. E Marco l'abbiamo perso di vista, però, ci dicevi. Sì, ti dico, non mi ricordo neanche più il cognome che ha. Senti, invece c'è un aspetto del tuo racconto che tu specifichi molto chiaramente e che effettivamente fa ricordare a tutti quanti quella sensazione. Cioè tu dici, a me sembrava un'ingiustizia. Cioè mi sembrava ingiusto che i miei non mi accontentassero. Giusto? Sì, non capivo il perché lui poteva avere tutti quei giochi con cui divertirsi e io dovevo avere solo i miei, che comunque... L'amor di Dio ne avevo anch'io, solo che mi faceva rabbia vedere che lui poteva avere qualsiasi cosa mentre io no. Tu dici avevo un ottavo dei suoi giochi, mi diverte questa. Cioè è come se li avessi contati e lui aveva 8 volte i tuoi giochi. Anche di più. Senti, i tuoi cosa ti rispondevano quando tu dicevi che quando tu sostenevi che quella fosse un'ingiustizia? Oh, mi diceva che non era necessario, che avevo già abbastanza giochi con cui divertirmi, con cui giocare. Senti, tu adesso giochi, fai i giochi che si fanno alla tua età? Giochi tipo alla Play oppure al... Boh, ogni tanto sì. Cioè, ce l'hai la PlayStation? Sì, sì. E fai una marea di attività fisica? Ogni tanto vado in palestra o in piscina. Cioè, non fai uno sport vero e proprio, vai in palestra? Sì, vado in palestra. Che la palestra non è esattamente uno sport, o sì? Boh, non ho idea, so. Comunque fa bene. Fa bene, sì, quello senza dubbio. Ho avuto però di recente una diatriba su questo tema, che il fatto la palestra fosse meno uno sport. A me non sembrava, perché non è una disciplina, però tant'è, chi se ne frega, ne parlo con un'altra persona. Thomas, che cosa farai dopo la scuola? Sai che non lo so. Come non lo sai? Quanto ti manca? Sono un po' indeciso. Lo sento, hai l'aria un po' indecisa, Thomas, si sente da lontano. Tu esattamente fai l'alberghiero, c'è un indirizzo preciso che stai seguendo? Scusami? Sala e vendita. Sala e vendita, ok, quindi vuol dire, detto per chi non... Sala e bar, diciamo. Ok, e quindi hai in mente di fare quella roba lì, oppure proprio... Mi piacerebbe fare il barista, il bartender, però non è una cosa sicura, si vedrà col tempo. Aspetta, non è una cosa sicura il tuo desiderio o non è un lavoro sicuro? No, non è una cosa che sono sicuro di fare. Ah, ok. Quanto ti manca, un anno? 2. Invidioso? Sei ancora? È passata quella roba lì? È passata. Thomas, ti ringrazio per averci mandato la storia e per la chiacchierata. In bocca al lupo per tutto, per tutte le tue decisioni. Ciao, a presto, buona giornata. Ciao, ciao. giudicare dai messaggi che arrivano via WhatsApp al 349-238-6666, credo che Thomas abbia più o meno l'età di gran parte degli ascoltatori di Radio 24, perché alcuni scrivono esattamente come mio figlio e alcuni scrivono un vero sedicenne. Riconosco il marchio. Ora ascoltiamo le borse in diretta e poi torniamo a raccontare una puntata sull'invidia qui a Linea d'Ombra. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta Acquisto o noleggio? Perché scegliere quando puoi averli tutti e due? Nasce Noleggio Chiaro, il primo noleggio a lungo termine di Fiat Chrysler Automobiles che ti permette di scegliere oggi l'auto che desideri e ti dà la possibilità di acquistarla dopo 3 anni a un prezzo garantito. Ad esempio, Alfa Romeo Stelvio è tua da 399 euro al mese con RCA, furto incendio, copertura danni e manutenzione inclusi nel canone. Offerta valida fino al 31 gennaio e soggetta ad approvazione Lisis. Durata del noleggio 36 mesi, anticipo 12.200 euro. Info su noleggiochiarofca.it. Nel 2002 mi sono diplomato. Nel 2006 ho aperto un bar. Nel 2010 mi sono sposato. Nel 2011 è nata mia figlia. Nel 2015 sono stato arrestato per omicidio. Nel 2016 sono stato condannato a 30 anni. Nel 2018 sono stato assolto con formula piena. Troppo spesso consideriamo mostro un innocente. Il Riformista è l'unico giornale che combatte ogni giorno contro manette facili e giustizialismo. Il Riformista, il quotidiano uguale a nessuno. Figliolo. Ma padre! È iniziato l'anno nuovo? Hai pensato al prossimo tuo? Sì, sì, per ben due volte. In poltrone sofà, doppi saldi, doppi risparmi. Sconto 50% più fino all'ulteriore 40 su tutta la collezione. E puoi pagare in 48 mesi senza interessi. E fino a domenica 12 gennaio, 2500 divani in pronta consegna a soli 99 euro. Poltrone sofà, autentica qualità. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori disponibili presso i negozi, salvo approvazione delle finanziarie. Linee d'ombra, storie dei nuovi vizi capitali. Aprirei questa seconda parte del programma ringraziando l'ascoltatore che mi scrive: occhio quando parli di Friuli Venezia Giulia, sono tre regioni differenti e la gente del luogo si offende, un po' come dire che Emilia e Romagna sono uguali. Ti ringrazio, devo dire che noi qui insomma in redazione non siamo fratelli nel mondo, quindi non crediamo moltissimo in queste diversità, ma l'ho scoperto, ti ringrazio, l'ho scoperto quando una volta per caso a Trieste dissi: beh, qui in Friuli, e il mio interlocutore mi guardò come dire: tu sei completamente matto, e mi disse: qui siamo nella Venezia Giulia. E vabbè, ma queste le lasciamo ad altri. Non so se abbiano a che fare con l'invidia queste questioni, sicuramente col campanilismo, ma oggi parliamo di invidia e vi raccontiamo storie legate all'invidia, e come spesso facciamo cerchiamo di raccontarvi storie molto molto diverse tra di loro. Quindi dopo la storia di una invidia semplice e fanciullesca raccontataci da Thomas, ora andiamo da un'altra parte e parliamo di un'altra invidia legata alla vita selvaggia e alla vita domestica, diciamo così. Parliamo di Marcos Rodriguez Pantoja, che è il protagonista di questa storia. La prima volta che Marcos ha sentito delle voci alla radio, visto che qua siamo, partiamo da questo piccolo aneddoto, Marco si spaventò, si alzò, si avvicinò a quello strano congegno e disse: non vi preoccupate, se vi spostate tutti da un lato vi tiro fuori da lì. Poi andò di corsa verso la parete dall'altra parte della stanza con la radio in mano e la lanciò con violenza contro il muro di mattoni. Il legno si scheggiò, l'altoparlante uscì dalla cassa e le voci tacquero. Quando però lui si inginocchiò per frugare tra i rottami della radio e non trovò nessuno, pensò di aver fatto una strage. All'epoca Marcos Rodriguez aveva poco più di 20 anni. Niente faceva pensare che la sua intelligenza fosse al di sotto della media, ma era un fatto che ignorasse l'esistenza delle tecnologie più elementari. Forse perché, stando a quello che dice, tra i 7 e i 19 anni aveva vissuto da solo, lontano dalla civiltà, nella Sierra Morena, in Spagna, la desolata catena montuosa che attraversa proprio il sud del paese. In questa puntata dedicata al vizio dell'invidia, la seconda storia di oggi è la sua. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Per buona parte della mia vita non sono stato a mio agio con gli esseri umani, dice Marcos Rodriguez oggi. Oggi vive a Arante, un sonnolente villaggio della Galizia, abitato da una 60ina di famiglie nel nord-ovest della Spagna. È in pensione e passa il tempo in campagna, al bar o andando a caccia di cinghiali con un amico. Si è trasferito in Galizia alla fine degli anni 90, quando un poliziotto a riposo lo ha portato lì e gli ha dato un lavoro e un posto in cui vivere. Per la prima volta da quando ha lasciato le montagne è sereno. Dice: qui la gente mi tiene d'occhio, è gentile, meglio di quella di prima. Parlare con lui fa uno strano effetto. Sembra un settantenne spagnolo come gli altri, con la sigaretta che pende quasi sempre dalle labbra. ma qualche secondo dopo averlo conosciuto si capisce che nel suo comportamento c'è qualcosa di diverso. Rodriguez avvicina l'accendino alla sigaretta mentre parla, la accende. «Queste cose ancora mi sorprendono», dice. «Sapessi che fatica facevo all'epoca per accendere un fuoco». Secondo Marcos Rodriguez, il periodo vissuto tra le montagne è stato glorioso. Eppure, quando pensa a cosa lo ha fatto soffrire di più nella vita, quello che gli viene in mente è il primo tradimento, quando suo padre lo vendette come schiavo. Marcos Rodriguez è nato l'8 giugno del 1946 in una piccola casa bianca del villaggio di Añora, in Andalusia. I suoi genitori, Melchor e Araceli, avevano altri due figli maschi. Dopo la guerra civile, l'economia agricola era in crisi e la vita era molto dura. La famiglia era povera. Suo padre partì per Madrid in cerca di lavoro. Nella capitale trovò un posto in una fabbrica di mattoni, ma poco dopo l'arrivo della famiglia, sua moglie morì. Conobbe un'altra donna. Mandò uno dei figli a vivere con la famiglia a Barcellona e ne affidò un altro ai parenti di Madrid. Il padre tenne Marcos con sé e con la nuova famiglia tornò a sud. Lì trovò lavoro come carbonaio. Il bambino, che aveva 4 anni, si occupava dei maiali. Per sfamarli lo mandavano a rubare pannocchie nel terreno del padrone della tenuta. «Se non ne riportava abbastanza, racconta Marcos, la mia matrigna non mi dava la cena». La donna lo picchiava spesso. Poi un giorno, avrò avuto circa 6 anni, dice, arrivò un uomo a cavallo. Scambiò poche parole con il padre e portò il bambino a casa con sé. Marcos non era mai stato in una casa così grande. In una enorme cucina gli diedero da mangiare uno stufato di carne. L'uomo poi gli disse che il padre glielo aveva venduto. Da quel momento in poi Marcos avrebbe lavorato per lui. Si sarebbe occupato del suo gregge di 300 capre. «Non ho mai saputo quanto quell'uomo pagò mio padre», racconta. La mattina dopo l'uomo lo portò a cavallo tra le montagne fino a una piccola grotta sulla Sierra Morena, una catena montuosa piena di lupi e di cinghiali. Una volta arrivati lì, lo affidò alle cure di un vecchio pastore. Il bambino dormiva all'aperto e all'inizio era spaventato dai versi degli animali. Il vecchio parlava poco, gli dava da bere latte di capra e gli insegnava a catturare le lepri e ad accendere il fuoco. Un giorno il pastore disse che andava a caccia e non tornò più. Non venne nessuno a sostituirlo. Il padrone passava ogni tanto a controllare le capre, ma lui si nascondeva. Non voleva che lo riportasse a casa, dove era stato maltrattato per anni. Anche nei momenti peggiori, racconta, preferivo le montagne all'idea di tornare in quella casa. Nelle settimane successive provò a succhiare il latte delle capre. Cercò di catturare fagiani, di pescare trote, ma con scarso successo. Quindi cominciò a seguire l'esempio degli animali. Vide come i cinghiali scavavano per estrarre i tuberi e come gli uccelli coglievano le bacche dai cespugli. Seguendo gli insegnamenti del pastore, improvvisò trappole per conigli e si accorse che quando li sventrava nel fiume, il loro sangue attirava i pesci. Una volta cresciuto, non ricorda a che età, imparò anche a cacciare i cervi. Era ancora bambino, aveva solo 6 o 7 anni quando incontrò per la prima volta i lupi. Stava cercando riparo da un temporale quando trovò una tana. Entrò e si addormentò insieme ai cuccioli. E risulta che mi quedé dormito, vino la loba, y me se quedó así enfocándome con los ojos y yo me arrinconé allí contro la roca. La lupa era andata a caccia e quando tornò con il cibo ringhiò lo sconosciuto. Marcos pensava che l'animale volesse attaccarlo e invece gli lasciò prendere un pezzo di carne. I lupi non sono l'unica specie con cui ha vissuto. Dice di aver fatto amicizia anche con volpi, con serpenti, e che i suoi nemici erano i cinghiali. Parlava con loro usando un misto di grugniti, ululati e parole che ricorda vagamente. Non so in che lingua, racconta, ma parlavo. Drifter. All'inizio del 1965 un agente della Forestale disse alla polizia spagnola di aver visto un uomo con i capelli lunghi vestito di pelle di cervo che vagava per la Sierra Morena. Furono mandati tre agenti a cavallo a cercarlo. Rodriguez dice che quando lo trovarono stava mangiando frutta all'ombra di un albero. Ricorda che gli uomini scesero da cavallo e provarono a parlargli, ma lui non sapeva rispondere. Capiva le domande, ma non parlava da 12 anni e le parole semplicemente non gli venivano. Quindi scappò. Gli agenti lo raggiunsero facilmente, gli legarono le mani alla sella di uno dei cavalli e lo trascinarono via. Marcos racconta che mentre scendeva dai monti, ululava. Per prima cosa lo portarono in un paese vicino, lo affidarono a un barbiere. Ma quando l'uomo tirò fuori il rasoio e cominciò ad affilarlo, Marcos gli saltò addosso. «Pensavo che volesse uccidermi», dice. I due agenti dovettero tenerlo con la forza. Poi, ricorda, lo portarono nella prigione di Cardegna, a una ventina di chilometri di distanza, mentre i poliziotti andavano a cercare suo padre. Quando alla fine lo rintracciarono, Melchor non lo arrestarono per aver venduto il figlio come schiavo, anzi, gli chiesero solo se lo rivoleva indietro. Invece di essere contento, l'uomo rimase indifferente. Quando i poliziotti videro che a Melchor non interessava riprendersi il figlio, lasciarono il ragazzo nella piazza del paese. Allora due pastori lo presero con loro e lo misero a sorvegliare le pecore. Pochi giorni dopo la sua cattura, Marcos era di nuovo sulle montagne a badare agli animali. Nell'estate del 1966 i due pastori trasferirono il loro gregge nel paesino di L'Opera, dove i pascoli erano migliori. Quando incontrò il figlio del medico del paese, un parroco di nome Juan Luis Galvez, Rodriguez non sapeva ancora parlare. Era passato un anno da quando lo avevano trovato, ma aveva trascorso poco tempo con gli esseri umani. Galvez trasferì il giovane nella sua casa di famiglia, gli insegnò a vestirsi, a mangiare correttamente e a pronunciare le parole. Organizzò anche qualche partita di calcio per farlo giocare con gli altri ragazzi. Ma lui faceva resistenza. Provavo invidia, racconta, per gli animali liberi nella Sierra Morena. Ogni volta che potevo, cercavo di scappare di nuovo tra le montagne. Alla fine dell'estate del 66 Galvez mandò Marcos in un ospedale religioso nella zona nord di Madrid. Lì i medici gli tolsero i calli sotto i piedi e gli legarono una tavola alla schiena per farlo camminare dritto, mentre le suore gli insegnavano a parlare. Rodriguez capiva quello che dicevano, il problema era solo che non parlava da tanto tempo, che aveva perso la capacità di pronunciare le parole. In quel periodo lavorò in vari cantieri di Madrid. Le suore speravano che questo lo preparasse a vivere nella società, ma non lo aiutò molto. All'inizio dell'anno successivo fu mandato a fare il servizio militare a Cordova. Non ci rimase a lungo, però, durante un'esercitazione rischiò di uccidere con il fucile un compagno. Fu congedato e rimandato all'ospedale di Madrid. Quando ci arrivò, un altro paziente lo convinse ad andare insieme a lui a Maiorca perché, in quel momento, l'isola stava diventando una meta turistica internazionale e ci sarebbe stato un sacco di lavoro. Appena arrivato sull'isola, il suo compagno di viaggio gli rubò la valigia e i pochi soldi che le suore gli avevano dato e lo lasciò solo in un ostello. I proprietari, che pensavano fosse un truffatore, chiamarono la polizia. Per fortuna, però, le suore avevano chiamato in anticipo il commissariato locale, avvertendoli del mio arrivo. Invece di arrestarlo, gli trovarono un lavoro per pagare i debiti. In seguito poi Marcos lavorò come aiuto cuoco, barista, muratore e spazzino. Dato che non capiva bene come funzionavano i soldi, spesso lo pagavano meno del dovuto e approfittavano della sua ingenuità. Negli anni Ottanta Marcos lasciò Maiorca e si trasferì nel sud della Spagna, dove fece altri lavori. Andava al bar del suo quartiere quasi tutti i giorni, si ubriacava e giocava con le slot machine. Non ricorda molto di quegli anni, a parte il giorno in cui incontrò l'uomo che oggi chiama il mio capo. Nel 98, un poliziotto galiziano a riposo, Manuel Barandela, era da suo figlio quando vide Rodriguez che viveva nel seminterrato di un edificio abbandonato. Barandela decise di portarlo con sé a Arante, dove poteva offrirgli una casa e un lavoro nella sua fattoria. Arante, Marcos, trova la pace. It's a mystery to me. We have agreed with which we have agreed. And you think think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Noi questa storia l'abbiamo trovata su un numero di Internazionale di qualche anno fa, tradotta appunto da una rivista spagnola, si intitolava Marcos Rodriguez Montoya, l'uomo lupo, ma è arrivato un messaggio di Luciano da Pordenone che dice: quando stavo in Spagna vidi il film che si intitola Entre Lobos, tra i lupi, che racconta proprio la storia che avete raccontato oggi, merita di essere visto, se riuscite a trovarlo vi raccomando di guardarlo. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo qui a Linee d'ombra. Linee d'ombra, storie dei nuovi vizi capitali. E visto che questa puntata è tutta dedicata all'invidia, e visto che, nonostante la splendida storia su Marcos Rodriguez, abbiamo aperto con una storia che parla di invidia allo stato puro e allo stato zero, ho detto in apertura, nel senso che quando si è bambini si prova invidia proprio nei confronti degli oggetti e delle cose che hanno gli altri. C'era però in quella storia un elemento molto importante. Era lo stesso Thomas, diceva: alla fine ho apprezzato il fatto che i miei genitori non mi abbiano viziato, cioè mi abbiano cresciuto sapendomi dire di no. E quando si tratta di ragazzi o di età evolutiva, a noi piace sempre sapere qualcosa di più, e per farlo chiamiamo l'amico Alberto Pellai, che è appunto psicoterapeuta dell'età evolutiva. Pronto, ciao Alberto, buongiorno. Ciao Matteo, buongiorno a voi. Alberto, senti, so che è la domanda, diciamo, più semplice che si possa fare, la più complicata, ma quanto è difficile, quanto è importante dire di no ai propri figli in un certo momento della vita, come quello appunto in età molto giovane, in cui si vedono le cose che hanno gli altri e le si vorrebbero tutte? Ma credo che questo sia proprio il segreto del buon genitore, cioè come servono i sì che aiutano a crescere, servono anche i no che aiutano a crescere. E penso che i figli fanno il loro mestiere quando vorrebbero tutto subito e il più possibile, e fondamentalmente seguono un po' le pulsioni che li tengono in balia e cercano anche di adattarsi alle pressioni fortissime che per esempio ricevono dal mercato oppure dal loro gruppo dei pari. Ecco, un genitore competente è un genitore che sente che ci sono dei no che sono necessari, perché per esempio rispondono allo status economico della famiglia: non ci possiamo permettere tutto, perché a volte sono proprio no che insegnano anche a sostenere il desiderio, educano proprio al desiderio, e quindi non esauriscono tutta la tensione del voglio qualcosa nel qui ed ora e in questo momento assoluto. Alberto, è interessante quando dici i figli fanno il proprio lavoro, quindi è normale, no? Appunto, come hai raccontato, le pressioni che arrivano dal mondo fuori, dagli amici o da tutto quello che ci comunica appunto dal web, qualsiasi schermo o cartellone che ci capita davanti, quindi è normale desiderare le cose, così come è normale imparare a non riceverle tutte. Penso che sia successo un po' anche a noi quando avevamo l'età dei nostri figli, cioè il desiderio ci appartiene, e tra le altre cose molti oggetti, molte cose sono anche un po' degli status symbol, cioè delle cose che desideriamo per sentirci validi. Questo il mercato ce l'ha insegnato in modo molto forte. Un genitore spesso nel dire no ha paura di causare l'infelicità del proprio figlio, di renderlo particolarmente triste oppure escluso dal suo ambito sociale, ma se ha questa paura e quindi continua a dire sì, in realtà poi rende davvero il figlio un soggetto che dipende da tutto ciò che possiede, che quindi non sviluppa poi invece le competenze che sono più legate al suo saper essere. Direi che è un po' il conflitto tra avere e essere che ci aveva anche raccontato Eric Fromm nel suo bellissimo libro. Alberto, tra l'altro, rimanendo sul tema del, appunto, del dare o non dare, che è il cuore di questa puntata che è partita con questa storia legata ad Nvidia, Thomas a un certo punto racconta una cosa molto precisa, ed è che quando il suo amico Marco voleva ottenere delle cose, le chiedeva i suoi genitori dicevano di no, lui cosa faceva? Frignava, si lagnava e loro gli dicevano di sì. Quando si arriva a un punto per il quale l'unica comunicazione che i figli hanno nei confronti dei genitori è quello del capriccio, come se ne può uscire da quel cul-de-sac? Ma fondamentalmente il genitore deve sentire che il capriccio di un figlio è un po' come la turbolenza di un aereo che mette fortemente in agitazione i suoi passeggeri. Lì il comandante prende in mano il microfono, dice: stiamo attraversando una turbolenza, ma io ci penso io, allacciatevi le cinture di sicurezza, fra 10 minuti ne saremo fuori. Ecco, è davvero importante che un bambino percepisca che il genitore è un po' il pilota della sua vita, che mentre lui fa un capriccio sta attraversando una turbolenza, ma che l'adulto sa esattamente qual è la direzione, qual è il traguardo a cui devono arrivare. Se un adulto rimane tranquillo, e non è così facile, per esempio davanti ai capricci dell'ipermercato ci sentiamo molto giudicati anche dallo sguardo degli altri adulti che magari ci vedono di fronte a un bambino che si è completamente sregolato. Però rimane il dato di fatto che se noi adulti abbiamo le idee chiare, le comunichiamo in modo tranquillo, autorevole ai nostri figli, ecco, dopo un po' capiscono che effettivamente lo spazio del loro desiderio è comunque contenuto dalla capacità dell'adulto di sapervi mettere un limite, di saper dire alcuni sì, ma di saper sostenere anche quei no che solo l'adulto sa essere necessari, e quindi dei no che non possono essere negoziati. È sempre un piacere ed è sempre illuminante parlare di genitori e di figli. Grazie ancora Alberto Pellai, ci sentiamo presto, in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi, ciao Matteo. E continuiamo a parlare di genitori e figli, anzi parliamo di un padre e un figlio. La storia seriale che vi stiamo raccontando è sì dedicata all'ira, racconta un pezzo, come vi dicevo già ieri, di questo paese, racconta di quello che è successo a Sergio Bazzega, che era un poliziotto che è stato ucciso da un giovane brigatista rosso. Giorgio è il figlio, ha combattuto per anni con l'ira nei confronti di queste persone e poi è riuscita in qualche modo a risolverlo. Ce l'ha raccontata, l'ha raccontata Mauro Pescio, e in questa puntata ci racconta come tutto è iniziato. Mio papà era entrato insieme a Padovani nella casa del brigatista. Insieme si sono addentrati lungo un corridoio, quando all'improvviso Walter Alasia è sbucato dalla sua camera e ha fatto fuoco. Ha colpito prima Vittorio. Papà era armato di mitraglietta, avrebbe potuto dare una sventagliata, ma sulla linea di fuoco c'erano i genitori e il fratello di Alasia, per cui ha deciso di non rispondere al fuoco e di provare a disarmarlo. Questo ragazzo invece gli ha sparato e papà è morto per questo motivo. Tuo papà era consapevole che correva un rischio del genere nel suo lavoro, secondo te, secondo tua mamma, da quello che... Io ti dico solo una cosa, papà... Quando ha sposato mamma, una sera le ha dato un bacio, l'ha guardata e le ha detto: Luciana, io, se posso dirtelo, ho scelto di sposarmi con te perché so benissimo che se dovessi morire tu sapresti crescere nostro figlio tranquillamente da sola, o avresti la forza di crescerlo da sola. Papà ne aveva assolutamente coscienza, ma tutti, lui e tutti i suoi colleghi in quel periodo ne avevano coscienza. In quel periodo tutti avevano una profonda coscienza di quello che rischiavano e avevano tutti paura. La tensione era così alta che un giorno un collega di papà è in macchina, uno gli taglia la strada, lui è così spaventato che subito pensa ad un'imboscata, tira fuori la pistola e sta per sparare, poi si accorge che effettivamente era solo uno che gli aveva tagliato la strada. Da quel giorno, non dico tutti, ma tantissimi della squadra di papà lasciavano la pistola nell'armadietto o nel cassetto in questura. Non la portavano a casa nel tragitto, avevano paura che succedesse una cosa del genere e di sparare a uno che non c'entrava niente. Avevano tutti paura. In quel periodo tutti avevano profonda coscienza di quello che rischiavano, avevano tutti anche paura. Poi la paura è una cosa sana, non c'è che bisogna vergognarsi, cioè gli uomini hanno paura. Giorgio, scusa, che data era? Cioè quando c'è stato... Papà è stato ucciso il 15 dicembre 1976 a Sesto San Giovanni. Ed è stato forse il primo poliziotto ucciso dalle Brigate Rosse. E Infatti c'era stato clamore anche per questa cosa qua, poi anche per il fatto che Walter Alasia era stato ucciso anche lui e si era fatta tutta una storia, poi non si sa se è vero o no, io non mi permetto, cioè mi verrebbe da dire non è vero, ma cioè per me, per rispettare mio papà ci vuole tanta onestà e non ho gli strumenti per dire non è vero, alcuni dicono che c'è stata un'esecuzione vera e propria, non lo so. Io quello che so non è stato così, so che lui è scappato dalla finestra, gli altri hanno sentito gli spari e gli ha sparato. In un'altra situazione magari non gli avrebbero sparato, ma bisogna anche capire il periodo, bisogna capire quello che sta succedendo, bisogna porre, ripeto, la paura tutti che avevano di morire in quel periodo. E davvero molte grazie a Giorgio Bazzega e alla sua famiglia. Giorgio ci sta raccontando la sua storia, se avete voglia di continuare a sentirla e di sentire tutte quelle che vi raccontiamo, ci sentiamo domani puntualissimi alle 15 per raccontarle. Che raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!